mio cuore l'impero non c'è dove la luna sia d'altra beltà la costoro a vedere se è qual d'oro di che il padre si ora la vita giusto di questa mi sarà gradita forse un'altra forse un'altra domani lo sarà un'altra forse un'altra domani lo sarà. Sarà tirata del cuore desettiamo al mormo crudere a chi vuole si servi fedele dal mio amore la mia libertà se mariti il geloso amore degli amanti le anco d'argo i tentacchi di fido sempre punge ma qualche verità a dire